Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Dopo aver parlato di animali longevi, notavamo, ringraziamo tutti voi per la cortese attenzione, Cristiano Valli per la regia, e confermiamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora. Buone giornate.